Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Egregio direttore, ho sentito che è stata accettata l'offerta di CAI per rilevare la parte buona di Alitalia per 1.052 milioni di euro, di cui 427 milioni definiti contanti, mentre 625 milioni sono accollamento di debiti, leasing aeromobili, diritti aeroportuali, eccetera. La parola contanti è solo un eufemismo, in quanto i pagamenti effettivi sono così indicati: 100 milioni di euro alla firma, 30 gennaio, 327 milioni di euro in due tranche, con pagamenti a 6 e 24 mesi. Non mi risulta che si possa definire in contanti un pagamento quando sono previsti due pagherò, tra l'altro di importo ciascuno ben superiore di quanto si versa alla firma del contratto. Non mi è mai stato consentito da privati, banche, Stato, notai, eccetera, di poter definire contante ciò che non lo è. Ma la cosa più preoccupante è un'altra. Possibile che le privatizzazioni delle industrie italiane siano tutte fatte a debito e che nessuno versi l'effettivo valore pattuito per l'acquisizione del bene. Non vorrei che nel caso CAI si potesse ingenerare un problema di mantenimento della proprietà della società, viste le prospettive economiche mondiali. Dato che la vendita a CAI è già stata un pessimo affare, rispetto all'offerta fatta da Air France KLM qualche mese fa, sarebbe una vera iattura vedere insorgere un contenzioso per questa cessione. Agostino. Gentilissimo direttore, in questa situazione di forte crisi, in cui il petrolio da luglio è sceso a un terzo del proprio valore, non si capisce perché il costo dei carburanti non stia variando. Dov'è finito Mr. Prezzi? Dov'è finito Beppe Grillo, che proponeva di boicottare certe compagnie petrolifere quando il petrolio era alle stelle? È adesso che questi signori devono intervenire. Christian. Sono un dipendente pubblico e, per mia fortuna, negli ultimi 5 anni non ho fatto un giorno di assenza. La cura Brunetta non è tutta da buttare, ma prima di predicare ai fannulloni della pubblica amministrazione, il ministro Brunetta dovrebbe dare un'occhiata alle presenze dei suoi colleghi. Non mi risulta che le indennità siano proporzionate alle presenze in Parlamento. Sarebbe proprio curioso rapportare le indennità alle presenze e poi l'anno dopo vedere le statistiche sulle assenze rispetto all'anno precedente e commentare i miglioramenti nelle presenze di questo e quel deputato e senatore. Fare di tutta l'erba un fascio è sempre alquanto difficile e riduttivo. Paragonare un dipendente di un piccolo comune con organi ridotti a un dipendente di un ministero è inoltre una bestemmia. Un viaggio editoriale con quello che fanno i dipendenti dei piccoli comuni sarebbe alquanto interessante, così come sarebbe interessante fare la stessa cosa nei ministeri, funzione pubblica in primis. Brunetta predica bene, ma poi razzola male. Mauro. L'inchiesta del giornalista che si è finto omosessuale per dimostrare che a Roma nessuno vuole affittare appartamenti alle coppie gay mi sembra il frutto della solita stupidità di qualche pseudo giornalista. Ma vi sembra normale e logico che questo cosiddetto giornalista si metta a fare un'indagine telefonica a Roma, chiedendo all'interlocutore se affitta a un gay? Ma che ci azzecca, per dirla alla De Pietro? Insomma, se uno mi chiama e mi chiede se posso affittargli l'appartamento nonostante sia omosessuale, automaticamente mi insospettisco, perché penso: per dirmi qualcosa di non richiesto significa che vuole fare cose strane, altrimenti perché me lo dovrebbe dire? La vera discriminazione in questa sciocca intervista sta non nel comunicare un'informazione non sollecitata, ma al contrario nel constatare se esista una percentuale significativa di proprietari che richiedono chiarimenti circa la tendenza sessuale del potenziale affittuario. Solo in questo caso, ovvero se la richiesta di chiarimenti venisse fatta preventivamente dal proprietario, si potrebbe parlare di discriminazione e pregiudizio. Gianni. I ricercatori fuggono dall'Italia per tanti motivi: budget di ricerca, stipendio, ambiente di ricerca, non dover sottostare ai protetti dei baroni, sfida alla meritocrazia. Non credo però che tra i vari motivi ci sia la ricerca del posto fisso. Quindi, nella ricerca degli strumenti per arginare questo fenomeno, bisognerà tenere conto che i bravi ricercatori che vanno all'estero non vogliono il posto fisso, ovviamente nei primi anni. Tengo a precisarlo perché in un momento come quello attuale, dove si dà al precariato la colpa di tutto, bisogna essere chiari. Ettore. Ho 30 anni, da 10 lavoro nell'informatica e ho cominciato ad ottobre un percorso di laurea triennale in sicurezza delle reti e dei sistemi informatici. In pratica, di giorno lavoro e di sera studio. Non sono un ricercatore universitario, ma avendo un'esperienza di lavoro, sia nel privato sia nel pubblico, vi dico che ne ho le scatole piene del sistema Italia e sto mandando curriculum all'estero per andarmene. Avere le scatole piene del sistema Italia per me vuol dire non vedere premiato nulla di ciò che si fa come lavoro e non vedere riconosciuti i progressi che vengono messi in nero su bianco nelle schede di valutazione. Lasciando poi stare il discorso retributivo, me ne voglio andare e spero di riuscirci, perché nonostante le buone intenzioni, qui in Italia non cambia mai niente. Giuseppe, Sesto San Giovanni. Io credo che qui da noi quasi tutti i concorsi siano truccati, perché purtroppo siamo sempre al punto di partenza. Non funziona la giustizia. Ovviamente c'è da fare una riforma dell'università, e anche seria, ma sono comunque del parere che se quando si scoprisse un concorso truccato si applicasse il massimo della pena per truffa aggravata allo Stato, forse qualcosa si risolverebbe. Sanità, giustizia e istruzione sono campi in cui i nostri politici dovrebbero fare serie riforme. Ma purtroppo i burattini che animano il nostro teatrino politico forse a loro volta non sono lì per merito, ma per conoscenze. Capisco quindi che la mia è pura utopia. Roberto. Qualcuno mi dovrebbe spiegare perché il meccanismo dei prezzi non può funzionare all'ingiù, come dovrebbe accadere invece in fase recessiva. Non sarà perché ci rendiamo conto di essere in un sistema che vorremmo teorizzare in un modo quando ci fa comodo e in un altro quando non ci fa comodo? La deflazione è la giusta contromisura. A rimetterci deve essere il rendimento del capitale investito, non può rimetterci solo il lavoro. Calano i consumi a causa delle speculazioni finanziarie e immobiliari e sul differenziale tra costo del lavoro, produttività dello stesso e inflazione. Una triade che ha garantito remunerazione del capitale investito a doppia cifra negli ultimi 7 anni e che garantisce rendimenti a doppia cifra nei paesi emergenti e che ha permesso ai ricchi di divenire più ricchi. Non possono pretendere di farlo anche in un momento recessivo, ma anzi è nel loro interesse rinunciare alla doppia cifra nel rendimento del capitale investito per mantenere alti i consumi, la produzione e ridare slancio all'economia. Quindi, nei momenti di stagflazione, stagnazione economica più inflazione, occorre lo sforzo di chi ha guadagnato moltissimo nei periodi di vacche grasse. Se ciò non fosse, coloro che vivono di rendite fondiarie, gli imprenditori più seri, pagherebbero uno scotto molto alto, con il rischio di innescare stati nascenti di tipo rivoluzionario. Ciò che importa è salvare il sistema guadagnando meno, attraverso un minor rendimento del capitale, permettendo un recupero del potere d'acquisto reale, attraverso la deflazione controllata, che permetterebbe di mantenere i livelli di produzione e di occupazione. Fatti salvi questi, sarebbe salva l'economia reale, meno quella finanziaria, che si ritroverebbe di fronte a minori rendimenti e crescite. Quindi a tutti coloro che vivono di questo, che detengono e muovono capitali, la richiesta è: se volete salvarvi e salvare tutto il sistema in breve tempo, fate un passo indietro e non pretendete una remunerazione a breve del capitale investito non congrua con i bilanci delle società. Alle aziende un invito a mantenere i livelli occupazionali a tutti i costi, a lavorare saggiamente sul sistema dei prezzi, prevedendo una decrescita del fatturato, una decrescita dell'utile netto, ma non una decrescita dei volumi. Ciò fino a che non si perdono soldi. Allo Stato la richiesta è quella di lasciare perdere i criteri di rigore fiscale e di bilancio e intervenire con emissioni obbligazionarie da collocare sul mercato per finanziarsi e finanziare gli aiuti che possono derivare anche da forme di detassazione degli utili reinvestiti al 100%, in particolare se in ricerca e sviluppo. Del resto, gli stessi parametri, se la recessione dovesse mordere, salterebbero in maniera ben più grave, innescando per di più una spirale inarrestabile. Occorre impedire che questa spirale si alimenti e occorre farlo subito. Alessandro. Finché nel paziente non si ferma l'emorragia, è inutile fargli assumere vitamine. finché non si ferma il trend di spostamento delle aziende in paesi come la Cina. È inutile pensare che piccoli aiutini di Stato possano salvare l'economia europea. L'Europa e l'Italia devono ritornare ad essere luoghi dove avere o aprire un'azienda risulti conveniente. Tutto il resto è solo un dettaglio. Marco, PS, nessun aiuto ai furbetti italiani che hanno spostato le loro attività in Cina o in altri paesi. Sì, agli aiuti agli stranieri che decidono di aprire stabilimenti in Italia. Buongiorno. A proposito della proposta del presidente dell'Authority per le comunicazioni di realizzare una grande rete a banda larga, vorrei solo fare presente che già nel 2000 Enel prospettava di far circolare le informazioni internet tramite la già esistente linea elettrica, cosa peraltro possibilissima. E non lo dico io, ma fior fiore di fisici. In internet si trova parecchio materiale in merito e ad una velocità non indifferente, quella della luce. Sì, perché l'elettricità viaggia solo all'esterno del cavo e all'interno potrebbero passare le informazioni trainate a velocità folli dall'elettricità che gli passa accanto. Ora mi chiedo, perché questo programma è sparito dalla circolazione? Perché viene proposto di fare un investimento enorme quando abbiamo già la soluzione in tasca? Denise, Brescia. Cara Denise, grazie mille per le sue osservazioni. Non sono un tecnico, ma ho una naturale diffidenza per le soluzioni troppo facili. Capisco che in Italia ci si possa credere che esistano potenti lobby interessate ad ostacolare il progresso per i propri interessi, ma questo può avvenire in tutti i paesi del mondo? Mi creda, se fosse facile produrre l'auto con il motore ad acqua o ad aria compressa, se fosse facile fare a meno della fibra ottica per internet ad alta velocità, se fosse facile trovare petrolio sotto la pianura padana, tutte queste possibilità diventerebbero reali. In realtà non esistono soluzioni facili per problemi complessi, anche se può farci piacere pensarlo. Villari ha ragione a non volersi dimettere. È stato eletto regolarmente e non si capisce perché, se Veltroni e Casini hanno fatto un accordo con Berlusconi, lui debba andarsene. Non se ne può più di questo modo ridicolo di fare politica. Certo, è sempre più difficile capire Veltroni. Io non ci riesco. Perché il problema Villari sarebbe diventato adesso un problema del centrodestra? Carlo. È disgustoso veder spendere energie politiche sull'elezione di Villari. Disgustoso e incomprensibile per il fatto che il signore in questione prima è stato accettato, probabilmente per fare numero, dall'opposizione e successivamente la stessa ha rinnegato le proprie scelte. Abbiamo una classe politica che emana uno sgradevole odore di marcio. Cosa può pensare il cittadino della strada che tutti i giorni lotta con problemi gravissimi, cercando di sopravvivere? Sdegno, disgusto, rabbia. Marco. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.